do. Cosa semplice poter superare un'inquietudine, ma adesso è tardi, ormai un conto aperto con i nostri guai. Mi dici che dormo poco, mi dici che mangio male, lo so, non tradisco mai, che dici, mi manca stare contro. Basta chi non si accorge di me, dico basta chi mi insulta e dico.